Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Oggi Destini Incrociati vi porta alla riscoperta di un genere vecchio di quasi 3000 anni, che allieta le platee di tutto il mondo ormai dalla notte dei tempi. Stiamo parlando della commedia. Nata in Grecia nel VI secolo a.C., ha la caratteristica lampante, imprescindibile, di suscitare genuino divertimento nel suo pubblico. Da Aristofane a Shakespeare, da Goldoni a Monicelli, fino ai fratelli Marx, ha sferzato i costumi, preso in giro l'autorità, fatto a gara con propri modelli, riuscendo a dire attraverso il riso molte più verità di quante non se ne dicano restando seri. I protagonisti di oggi sono due campioni di questa antica disciplina dell'arte drammatica. Entrambi sono di origini ebraiche e il particolare non è trascurabile, a sentire un commentatore d'eccezione, Barack Obama. Date un'occhiata alla storia degli ebrei. Praticamente avrebbero dovuto passare le loro vite a lamentarsi. Per cui ogni 10 ebrei, Dio ha pensato di farne uno che fosse un po' matto e passasse il tempo a far ridere gli altri 9. L'ironia e l'autoironia sono scritte nel corredo cromosomico di un popolo dalla storia complessa come quello ebraico. Queste parole, pronunciate dall'attuale presidente degli Stati Uniti lo scorso 5 dicembre, nel corso di un'affollata cerimonia al Kennedy Center di Washington, sono rivolte a un regista che ha fatto del divertimento e del riso le sue principali ragioni di vita, nonché il fulcro di un'intera carriera. È ancora presto per scoprire di chi si tratta. Prima vogliamo occuparci di un attore straordinario e mai sufficientemente celebrato. Un attore che proprio grazie all'incontro con questo celebre regista cambierà per sempre il suo destino. Spostiamoci in Inghilterra, la patria del nostro primo protagonista di oggi. Siamo a Londra, e più precisamente nel celebre East End, la zona che si propaga ad est della City, centro storico e cuore pulsante dell'economia e della finanza della capitale. A differenza del diametralmente opposto West End, l'elegante area verso cui nel corso degli ultimi 2 secoli si è via via spostato il centro di Londra, l'East End è da sempre stato caratterizzato da un altissimo tasso di criminalità, disagio, immigrazione. In un'umile casa a 2 piani, preceduta da un giardinetto grigio e spelacchiato, vivono 2 immigrati di origine ebraica, trasferitisi da Kiev nella capitale britannica. Il loro unico figlio è un gracile adolescente, destinato a diventare un grande attore comico. Il suo nome è Marty Feldman. Marty Feldman. Marty è un giovane irrequieto. Non ama la compagnia dei coetanei e non ama la scuola, che abbandona a 15 anni per tentare la fortuna come trombettista jazz. La sua esibizione musicale in uno spettacolo di varietà, che gli vale l'appellativo di peggior trombettista sulla faccia della terra, segna con tutta probabilità l'inizio di una invece brillantissima carriera come comico. Nel corso degli anni 50 il ventenne Feldman inizia a scrivere i testi per alcuni programmi, prima radiofonici e poi televisivi della BBC. Si tratta per lo più di sitcom, abbreviazione di Situation Comedy. Nata per la radio e poi felicemente trasferitasi sul piccolo schermo, la sitcom è caratterizzata da un'ambientazione singola o da un insieme molto ristretto di ambientazioni in cui si muovono gli attori per le loro gag. In mancanza di set grandiosi e frequenti cambi di scenario, l'attenzione è concentrata sui personaggi e sulla brillantezza dei dialoghi, un po' come a teatro. Sarebbe la situazione ideale per l'estro del giovane Marty, che però è ancora penalizzato dalla giovane età e da un'evidente deformità fisica. Affetto dal morbo di Graves, i suoi occhi sono costantemente strabuzzati, proiettati verso l'esterno, in una posa bizzarra e innaturale. Come se non bastasse, da ragazzo ha rotto il setto nasale durante un incontro di boxe improvvisato. Il suo naso perciò è storto e sproporzionato rispetto alle dimensioni del viso. Eppure Marty saprà fare di queste sventurate caratteristiche il suo imprescindibile punto di forza. Un attore comico non deve per forza essere bello. Il suo arduo e nobile compito è quello di far ridere, e in questo nessuno sembra essere più bravo di lui. Un detto popolare inglese dice «Your face is your fortune», «La tua faccia è la tua fortuna». Ed è proprio nella faccia sfortunata di Marty che si concentra incredibilmente la sua intera fortuna futura. All in just seen her face. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Dopo circa una decina d'anni di gavetta dietro le quinte della TV inglese, Feldman appare finalmente in video. Il suo battesimo avviene nel 1967, in occasione di At Last the 1948 Show, vero e proprio coacervo di sketch e invenzioni a cura di Feldman e di altri autori e attori comici destinati a diventare celeberrimi. John Cleese e Graham Chapman, due dei futuri membri del Monty Python. Il successo della trasmissione spalanca definitivamente a Feldman le porte del piccolo schermo. Nel 1968 la BBC gli affida addirittura uno show tutto suo che porta il suo nome. Con esso Feldman si aggiudica ben due BAFTA Awards, i prestigiosi premi della British Academy of Film and Television Arts, una sorta di Golden Globe britannico. In patria Marty è diventato una star. È inevitabile che ora la curiosità e la voglia di grandezza lo spingono a uscire dai confini britannici e a cercare fortuna oltre oceano. Il pubblico degli States ha l'occasione di conoscere per la prima volta Feldman durante uno spettacolo presentato da Dean Martin nel 1968. All'interno dello show del celebre artista italo-americano, Feldman si esibisce, supportato da altri comici, nelle sue consuete ed esilaranti gag. Dean Martin è da sempre un esempio per l'attore inglese. La mia generazione è cresciuta con Dean Martin e Jerry Lewis. Erano i nostri eroi. Un po' quello che per i giovani di adesso sono John Belushi e Dan Aykroyd. In pratica potrei dire che se sono diventato un attore comico è grazie all'influenza di Dean Martin e Jerry Lewis. L'amore di Feldman per l'America e per i suoi storici istrioni è ricambiato. Nel 1971, uno dei grandi network statunitensi, la ABC, spinta dal successo dell'apparizione di Feldman in uno show altrui, decide di produrne uno fatto su misura per l'attore inglese. È così che nasce The Marty Feldman Comedy Machine. Il piccolo schermo, da una sponda all'altra dell'oceano, l'ha ormai consacrato. Però Feldman, proprio come era accaduto alla fine degli anni 50 al suo idolo Dean Martin, approdato al cinema accanto a star del calibro di Marlon Brando e John Wayne, vorrebbe fare il salto di qualità. Il grande schermo lo attende. La sua innata vocazione di comico e la passione che lo anima possono trasferirsi su qualunque medium. L'importante per Marty è riuscire a regalare al suo pubblico un po' di sano divertimento. Quando ho la possibilità di fare quello che mi piace, ovvero far divertire la gente, non importa dove lo faccio. Se sei un minatore, chiudono la tua miniera, o cambi lavoro o cerchi un'altra miniera. È a questo punto della carriera di Marty Feldman, all'inizio degli anni 70, che avviene l'incontro che cambia la sua vita. Il suo destino, di fatto, non si incontra con quello di un'unica persona, ma con una sorta di collettivo di artisti già collaudato e noto al grande pubblico. Una specie di compagnia di giro sull'impronta della nostrana commedia dell'arte. A parlarci della genesi di questo fortunato sodalizio è Gene Wilder, celebre attore e sceneggiatore che proprio nei primi anni 70 sta lavorando alla stesura di uno script originale la cui idea è nata a partire da una fantasia. Un giorno il mio agente mi fa: che ne dici di un film con te, Marty Feldman e Peter Boyle? E io gli dico: ma è stupendo, come ti è venuta l'idea? Con un cast di artisti così non poteva che andare bene. E io avevo un copione che faceva il caso nostro. Lui mi disse di spedirglielo, ma io dovevo lavorarci ancora un po'. L'idea di Gene Wilder è quella di rifarsi a un genere ben preciso, sia nell'estetica che nella collocazione temporale. L'ispirazione gli deriva dai capostipiti hollywoodiani dell'horror, prodotti negli anni 30 dalla Universal. Pellicole che a loro volta si rifanno a capolavori tedeschi come Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau. Le indicazioni di Wilder a riguardo sono davvero minuziose e puntuali. Voglio che questo film abbia l'aspetto dei film del 1932, non degli anni 60 o 70. Voglio che sia alla maniera di Boris Karloff e Bela Lugosi. Ma quella specie di compagnia di giro di cui Wilder fa orgogliosamente parte non è specializzata in film horror, bensì in commedie. Qui c'è il cast comico migliore di tutti i tempi, dai film di Charlie Chaplin in poi. Marty Feldman è perfetto per entrare a far parte di questa banda di folli e geniali commedianti. Oltre all'innegabile talento, contano anche le sue bistrattate caratteristiche fisiche. Il personaggio che dovrà interpretare, infatti, è piuttosto fuori dal comune. E il suo ingresso sulla scena resta tuttora uno dei più memorabili della storia del cinema. Mi presi un paio di giorni e scrissi 4 pagine, quelle della scena alla Transylvania Station, dove incontro Marty, che ho scritto praticamente identica a come la si vede nel film. Il film in questione è una delle commedie più celebri mai apparse sul grande schermo, ugualmente amata dal pubblico e idolatrata dalla critica. È inoltre il capolavoro indiscusso di un regista eccezionale, un vero maestro nel suo genere, o forse nel nostro caso sarebbe più azzeccato dire un vero mostro di bravura. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Il nome della pellicola di cui stiamo parlando è già ironico di per sé. Combina l'elemento della passata tradizione, prima letteraria e poi cinematografica, con l'innovazione comica introdotta dalla nuova idea su cui fa perno la nuova sceneggiatura. Il titolo in questione in originale è Young Frankenstein. In italiano, Frankenstein Junior. Gene Wilder ricorda i primissimi momenti della stesura dello script. Ho preso un quaderno giallo e un pennarello blu e ci ho scritto sopra Frankenstein Junior. Allora non sapevo cosa volesse dire. Poi sono andato a rilassarmi un po' e per una mezz'oretta ho buttato giù la storia di quel che mi sarebbe successo se fossi stato il pronipote di Beaufort von Frankenstein. C'è una sceneggiatura e ci sono degli attori ansiosi di farla vivere. Manca di fatto un regista. Ce ne sarebbe uno in particolare con il quale Gene Wilder ha già lavorato, ottenendo un successo strepitoso. Se si parla di commedie, nessuno è migliore di lui. Ma Wilder è scettico sulla possibilità che accetti di prendere parte all'impresa. Un paio di giorni dopo, il mio agente chiama per dirmi che lo script è fenomenale. Mi dice: faremo di tutto per avere Mel Brooks come regista. Ma io non credevo che Mel avrebbe accettato di girare un film che non aveva concepito lui stesso. Certo, sarebbe stato qualcosa di fantastico. Il giorno dopo, Mel mi chiama e mi dice: in che guaio mi stai cacciando? In niente in cui tu non voglia cacciarti, gli ho risposto. Ormai l'avevate intuito. Il regista di cui stiamo parlando, il campione indiscusso della commedia che decide di entrare a far parte del progetto di Frankenstein Junior, risponde al nome di Mel Brooks. Mel Brooks. Lui e Gene Wilder hanno già avuto occasione di lavorare insieme su un altro set, collaborazione che ha fatto nascere una grandissima stima reciproca. Ma qual è la storia di questo incredibile professionista della risata? Per scoprirlo, facciamo un passo indietro. Mel Brooks nasce nel 1926 a Brooklyn, New York. Il nome con cui è registrato all'anagrafe, Melvin Kaminsky, tradisce le origini ebraiche dei genitori. L'infanzia di Mel non è certo una passeggiata, eppure lui ne parla sempre con entusiasmo, non mancando di far risaltare quel pizzico di ironia connaturato alle proprie origini. We were happy. There was my mother. Eravamo felici. C'era mia madre con noi. Mio padre morì quando io avevo solo 2 anni. Mio fratello maggiore ne aveva 10 e mia madre ne aveva giusto una 30. Ha dovuto crescere 5 figli da sola ed ha fatto un lavoro splendido. È vero. Non mangiavamo molto spesso la carne, ma c'erano sempre le uova e i fagioli. Dopo un'infanzia tutto sommato felice, il ventenne Mel viene arruolato nell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine del conflitto, Brooks inizia la sua carriera artistica in qualità di autore di sketch comici per la televisione. All'inizio degli anni 60 abbandona parzialmente il dietro le quinte ed esce allo scoperto in qualità di comico, entrando a far parte di un duo con l'amico Carl Reiner. Ma la passione per la scrittura, per il processo di creazione del prodotto, più che per la vanità dell'apparire all'interno del prodotto stesso, non lo abbandona mai. Mi siedo con in mano una matita ed un quaderno. Mi faccio venire delle idee e le scrivo. È del tutto simile ad un lavoro vero. Potresti farlo per sempre. Beh, l'unico problema è che devi sperare che continuino per sempre a venirti delle buone idee. L'inalienabile passione per la scrittura, unita alla sua naturale vena comica, porta Brooks a scrivere, intorno alla fine degli anni 60, la sceneggiatura della dark comedy The Producers, che debutta nelle sale cinematografiche nel 1968, diretta proprio da lui. Sceneggiatore, regista, autore della colonna sonora originale, Brooks è un vulcano. La storia dei due produttori di Broadway che fanno di tutto per allestire il peggior spettacolo in circolazione appassiona le platee di tutta America. Per Brooks le porte del mondo del cinema sono ormai spalancate. E per realizzare il piano non ci resta che mettere in piedi un fiasco sicuro. Quale piano? Quale piano? Il suo piano, piccolo genio del male. Il mio non è un piano. Io ho solamente esposto una teoria di natura contabile. Era un'idea. Brum. Le grandi imprese nascono da idee così. Non capisce, Bloom, caro Bloom, eroico, Leo Bloom. È tanto semplice. Prima mossa, cerchiamo il copione più schifoso del mondo. Seconda, spremo tutte le vecchiette di New York e trovo il milione. Terza mossa, lei si mette al lavoro, doppia contabilità, falsa per il fisco e vera per noi. Lei può farlo benissimo, lei è Califfo. Quarta mossa, gala a Broadway. E prima che diciamo quinta mossa, lo spettacolo è franato. Sesta mossa, ci prendiamo il milione, via! Il debutto cinematografico di Brooks è un successo strepitoso. L'Oscar del 69 per la miglior sceneggiatura originale suo di diritto. Nel film recita anche Gene Wilder, qui alla sua seconda esperienza sul grande schermo, la prima davvero importante. Già a partire da The Producers, dunque, inizia a costituirsi quel sodalizio artistico che proseguirà per diversi film, mietendo unanimi consensi. A loro sta per unirsi Marty Feldman, destinato a dar corpo e vita a uno dei personaggi più bizzarri e indimenticabili della storia del cinema. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati seguiamo le prime orme di una delle coppie più collaudate della commedia sul grande schermo. Stiamo parlando di Mel Brooks e Gene Wilder. I due all'inizio degli anni 70 sono impegnati nella realizzazione di un progetto ambizioso. Si tratta di una rielaborazione in chiave comica della figura di Frankenstein, celebre e terrificante personaggio ormai entrato di diritto nell'immaginario mondiale, dalle pagine di Mary Shelley fino alle trasposizioni in cellulosa di James Whale negli anni 30. Il tandem Wilder-Brooks sta per arricchirsi di un terzo fondamentale elemento. Stiamo parlando di Marty Feldman, attore strepitoso pronto a trasformarsi nel gobbo servitore più celebre della Transilvania. Dr. Frankenstein? Frankenstein? Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick? No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? I tempi comici sono perfetti e fanno di questa sequenza un esempio riuscitissimo di scambio dialogico surreale. La recitazione di Feldman e quella di Wilder scorrono lisce sui binari della sceneggiatura firmata a quattro mani dallo stesso Wilder e dal regista Brooks. Wilder, del resto, accetta ben volentieri di prendere lezioni da un premio Oscar. Lui mi ha dato la più grande lezione di sceneggiatura della mia vita, e cioè che la prima stesura del copione è soltanto un concetto. Poi, come se avessi in mano una mazza, devi colpire le idee portanti più forte che puoi. Se reggono, le tieni, e se iniziano a scricchiolare, le riscrivi da capo, perché la struttura è fondamentale. I consigli di Brooks si rivelano certamente fondamentali per la costruzione di un saldo impianto di sceneggiatura, eppure la solida struttura del copione non riesce a imbrigliare i guizzi di improvvisazione di un mattatore del calibro di Feldman. When Mel would just pull lightly on the reins for Madeline or me. Se Mel aveva la sensazione di non stare ottenendo quel che voleva, iniziava a dare uno strattone. In questi casi Marty non reagiva benissimo. Non dico che ci fossero asti o litigi, ma appena Mel lasciava le redini, Marty reagiva positivamente perché si sentiva libero. Magari quindi per un po' procedeva imbrigliato nella direzione sbagliata, ma nella scena dopo andava a briglia sciolta nella direzione giusta. Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare che Feldman si comporti come una prima donna. Di certo il suo estro strabordante ha bisogno di spazio per dispiegarsi totalmente, ma non si tratta di manie di protagonismo. Marty è unicamente votato a rendere il suo personaggio memorabile, come ricorda il produttore Michael Gruskov. Marty è stato stupendo. Era affabile e di grande aiuto, un vero genio comico, divertente e pieno di talento. Ci ha aiutati con la sua personale reinterpretazione dei vecchi film dell'orrore, i vari Frankenstein e Dracula, e il suo Igor. Ha cambiato il film. L'ensemble di attori radunata da Wilder e Brooks per Frankenstein Jr. è senza dubbio eccezionale. Eppure spesso e volentieri all'interno della pellicola è facile notare come l'apporto di Marty Feldman sia quello che davvero fa la differenza. Igor, vuoi aiutarmi a portare queste due? Certo, lei porta la bionda e io questa qui col turbante. Smettila! Parlavo delle due valigie. Sì, padrone. Signore... entriamo. Sarà una lunga notte se le occorre aiuto con le ragazze. Dentro! Lo scambio di battute che avete appena sentito fa parte di una scena rimasta memorabile nel ricordo degli attori coinvolti. Feldman, in un sublime scatto di improvvisazione, addenta la volpe di pelliccia drappeggiata attorno al collo della fidanzata del dottor Frankenstein. Il gesto è esilarante, tanto che Brooks decide di inglobarlo nella sequenza. Il guaio è che nessuno dei presenti riesce a smettere di ridere alla vista della bocca di Feldman ricoperta di candidi peli di volpe. Gene Wilder rammenta così le difficoltà di quel momento. Alla fine ce l'abbiamo fatta all'ottavo o nono Chuck. Io sono riuscito a trattenere le risate e mi ci è voluta una grossa forza interiore. Mi sono trattenuto al punto che sembrava avessi un moto d'odio nei suoi confronti, ma in realtà era soltanto la mia bocca che fremeva per evitare di ridere. Era impossibile per chiunque non ridere. Marty era troppo divertente. Feldman è una vera e propria macchina del divertimento. I colleghi già lo adorano e le platee dei cinema di tutto il mondo sono ansiose di riconoscere le sue straordinarie abilità. Marty Feldman è molto più di un semplice attore. È il perno attorno al quale ruota tutto il cast di Frankenstein Jr. La sua curiosa postura, il suo accento smaccatamente british, il suo spiccato senso dello humor, tagliente e vagamente grottesco, contribuiscono a creare una figura che trascende le normali distinzioni tra persona e personaggio. Marty è entrambi al tempo stesso. Gene Wilder ne riconosce l'influenza straordinaria sull'ambiente di lavoro e sugli attori. Il mondo strano in cui noi tutti entravamo ogni volta che mettevamo piede sul set era incarnato da Marty Feldman. Si tratta di un mondo in cui il surreale, il nonsense e il non detto possono rivelarsi più divertenti ed efficaci di qualunque battuta esplicita. E sono certo che andremo molto d'accordo. Oh, scusa, io... Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Si va? La gobba in questione, di fatto, si sposta nel corso del film da un lato all'altro della schiena di Feldman, producendo un genuino senso di spiazzamento non solo nello spettatore, ma nel dottor Frankenstein in persona. Interrogato sul suo personaggio durante un'intervista sul set, Marty appare molto divertito dall'escrescenza che si vede costretto a portare per esigenze di copione. Curioso, no? È una protesi per donne incinte, ovvero viene usata di solito per simulare le gravidanze nei film. Come ricorda con orgoglio il produttore Michael Gruskov, sul set di Frankenstein Jr. le cose non potrebbero procedere meglio. We knew we were getting what we wanted. Sapevamo che ce la stavamo facendo, anzi, stavamo facendo di più. Dopo ogni ripresa c'era un sacco di gente che si piegava in due da ridere. Era evidente che fossimo un gruppo perfettamente amalgamato. Quando lavori con un cast d'eccezione e si sviluppa un tale grado di comprensione fra tutti, beh, è stupendo. Il clima sul set è talmente disteso, divertito e fecondo che può capitare che qualche grande attore hollywoodiano, affascinato dall'idea di lavorare con tali e tanti professionisti radunati sotto la sapiente guida di Brooks, si offra volontario per far parte del cast. Non conta che si tratti di una particina. Quello che importa è poter dire di aver recitato sul set di Frankenstein Junior. Gene Wilder ricorda questo episodio. Gene Hackman. Un giorno Gene Hackman, che era un mio amico, mi chiese se c'era una particina per lui. Lui pensava ad un agente, a una parte secondaria, tanto per entrare, dire una battuta ed uscire. Gli dissi che ne avrei parlato con Mel. Ne parlai con lui e ci rendemmo conto che era rimasta soltanto una parte, quella del cieco. Gene Hackman, fresco di Oscar per la strepitosa performance da protagonista nel controverso poliziesco Il braccio violento della legge, indossa volentieri parrucca e barba finta per immedesimarsi nel vecchio cieco e rimbambito che ospita il mostro a casa sua. Gli versa la minestra sui pantaloni e dà fuoco al pollice della sua mano destra, convinto di accendergli un sigaro. Se un attore del calibro di Gene Hackman è disposto, anzi è addirittura ansioso, di smettere i panni del duro poliziotto della narcotici per apparire in soli 4 minuti in una surreale commedia in bianco e nero, beh, ne deve davvero valere la pena. Mel Brooks e Marty Feldman già lo sanno. Frankenstein Junior e coloro che lo interpretano sono destinati a un grandioso successo. You better beware, you better take care, you better watch out if you got long black hair. You come from behind, you go out of your mind, you better not go, you never know what you'll find. You look in his eyes, don't be surprised if you don't know what's going on behind his disguise. Destini incrociati. Destini incrociati è sul set di Frankenstein Junior, commedia destinata a lanciare in via definitiva la carriera di Mel Brooks, genio comico statunitense che si avvale in questa occasione della collaborazione di un attore britannico, Marty Feldman. Col suo fisico minuto e il suo aspetto bizzarro, Feldman è perfetto per interpretare il ruolo chiave di Igor, personaggio a metà tra il servo e il giullare. Senza di lui Frankenstein Junior non avrebbe mai avuto lo strepitoso successo che ormai da quasi 40 anni lo accompagna incessantemente, stregando legioni di fan e cultori di tutte le nazioni ed età. Di questo straordinario impatto sul pubblico è convinto Flavio Della Rocca, critico cinematografico e direttore della rivista 35 mm. E la cosa ancora più bella, non conosco nessuno che non sappia almeno 3, 4, 5 battute del film a memoria, quindi è un film che da subito è diventato un cult immediatamente, ma grazie alla gente, appunto, magari non tanto perché spinto dalla stampa, dalla critica, ma perché è penetrato nel cuore della gente e dei ragazzi ed è stato amato in questo modo. Certamente tra le ragioni di un simile successo c'è l'idea che Frankenstein Junior sia molto più di una semplice commedia. La pellicola di Brooks è ben lungi dall'essere soltanto una stanca parodia di genere, ricca di battute e di giochi di parole, ma povera di contenuti. Gene Wilder, fiero coautore della sceneggiatura, ne rivendica anzi un ruolo fondante, quello di veicolo di temi fondamentali come quello della diversità e dell'accettazione dell'altro. Credo che la vitalità di Frankenstein derivi dal concetto originario, a partire dal Frankenstein di Mary Shelley. Una creatura deforme ma piena d'amore, che vuole essere riamata ma è incompresa. È un tema davvero classico. C'è chi ha provato a svolgere questo tema in altri modi, ma io trovo che Frankenstein sia quello che lo sviluppa nel migliore dei modi. E anche se abbiamo girato un film comico, a tratti demenziale, quel tema classico è sempre lì. E credo che sia per questo che il film ha ancora così tanto successo. Ma al di là della comprovata forza di certe tematiche, ciò che davvero rende il film memorabile è la performance degli attori che vi recitano. Lo scarmigliato dottor Frankenstein interpretato da Wilder, la sua creatura col viso buono e le enormi sembianze di Peter Boyle, la padrona di casa, Frau Blücher, resa memorabile dal finto accento tedesco e dal nitrito dei cavalli che si imbizzarriscono solo a sentir pronunciare il suo nome. E poi, su tutti, Igor. O sarebbe meglio dire Igor. Per me Marty rappresenta il fulcro e l'anima del film. Gene Wilder non ha dubbi in proposito. E sulla sua stessa lunghezza d'onda è uno sceneggiatore e regista italiano, David Grieco. Di più è Marty Feldman, cioè il servo gobbo, Igor. Sul set di Frankenstein Junior, Feldman ha saputo fare delle sue debolezze un vero punto di forza. La stranezza del suo viso, in particolare, si è impressa in maniera indelebile nell'immaginario cinematografico, grazie a quegli occhi così tondi e proiettati verso lo spettatore, impossibili da dimenticare. Anche nella stranezza, dopo tutto, è nascosta una recondita bellezza. La classicità dei temi, la bravura degli attori, la freschezza della sceneggiatura sono tutti elementi che concorrono alla creazione di un capolavoro. Ma è il regista che col suo tocco sapiente sa amalgamarli e renderli un unico perfetto impasto di successo. Questo è il merito di Mel Brooks, che con Frankenstein Junior ha toccato l'apice della sua fortuna personale, a sentire il produttore Gruskov. Credo che sia il film migliore che Mel abbia mai fatto. E intendo come regista, non solo come autore di commedie. È un film totale. Dall'intuizione di Gene Wilder alla messa in scena di Mel Brooks, passando per la performance di Marty Feldman. Il segreto del successo della pellicola sta tutto qui dentro. Resta indimenticabile la performance di Frankenstein e del suo mostro, scatenati sulla ribalta del palcoscenico. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Damen und Herren, from what was once an inarticulate mass of lifeless tissues, may I now present a cultured, sophisticated man about town. Hit it! Trying mighty hard to look like Gary Cooper. Uber, Uber! Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or Rumbarellers in their midst. E dopo quasi 3.000 anni di vecchiaia, la commedia, intesa come archetipo narrativo, non ha ancora smesso di stupirci. L'idea di un Frankenstein comico, ironico, era assolutamente imprevista da parte del pubblico, quindi fu veramente una delle più grandi sorprese degli anni 70. Come già avvenuto nel caso di Frankenstein Junior, vero e proprio tributo comico all'horror, al suo stile e ai suoi cliché, Brooks da qui in avanti si lancia in una fortunata serie di parodie e omaggi ai generi cinematografici più disparati. The genre has to be part of the American... Il genere è una componente fondamentale dell'industria cinematografica americana. Il pubblico ha bisogno di sapere quali sono i cliché a cui va incontro. Ad esempio, ha bisogno di sapere che verranno attaccati da stormi di uccelli rapaci o che mentre è nella doccia, Anthony Perkins arriverà impugnando un coltello e tenterà di ucciderlo. Il riferimento di Brooks a un maestro di genere come Hitchcock non è affatto casuale. Dopo essersi cimentato con la parodia dell'horror e del western, quest'ultimo rappresentato dal film Mezzogiorno e mezzo di fuoco, il regista si dà alla suspense. Ecco dunque alta tensione, gustosa presa in giro dei gialli dell'indiscusso maestro del brivido. Alla fine degli anni Ottanta toccherà alla fantascienza. Balle spaziali si prende gioco fin dal titolo delle grandi produzioni di George Lucas, ricalcandone i personaggi e ribaltandone i cliché più frequenti. Ci stiamo avvicinando, signore. In meno di un minuto Stella Solitaria sarà nostro. Bene. Prepararsi all'attacco. Prepararsi all'attacco. Conto fino a tre. Uno. Due. Che è successo? Dove sono? Non lo so, signore. Devono avere un propulsore su qualcosa. E noi cosa abbiamo sulla nostra nave? Un frullatore? No, signore. Bene, trovateli, prendeteli. Sì, signore. Prepararsi alla velocità luce! No, la velocità luce è troppo lenta! La velocità luce è troppo lenta! Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata! Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci, non so se la nave potrà sostenere... Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Preparare la... Preparare la nave per la velocità smodata. Allacciate le cinture di sicurezza. Chiudete le entrate e le uscite. Chiudete tutte le boutique e il piano bar. Abolite le entrate di favore. Chiudete tutti gli animali dello zoo. A me, specie di ufficiale da quattro soldi. E adesso stia a sentire. Velocità smodata. Signore, non allaccia la cintura. Me la sbatto la cintura. Velocità smodata. Via! Prosegue nel frattempo la fruttuosa collaborazione tra Brooks e Feldman. Il regista lo vuole in quello che con tutta probabilità è il suo film più ambizioso e folle, come suggerisce il titolo, L'ultima follia di Mel Brooks. Nel pieno rispetto della logica secondo cui Brooks è un rispettoso amante, prima ancora che un fustigatore dell'impalcatura dei generi cinematografici, quale scelta migliore che quella di impelagarsi in un omaggio al film muto? Se è riuscito a togliere il colore da Frankenstein Junior, facendolo tornare agli antichi fasti del bianco e nero, perché non provare una buona volta a togliere anche il sonoro? Detto fatto, Feldman gli viene in soccorso. La sua stranezza è perfetta per sposarsi col tipo di recitazione più enfatica, fisica, materiale, caratteristica del muto. E la sua faccia, manco a dirlo, parla da sola. Le stranezze di Feldman, perfette per il grande schermo, lo accompagnano anche nella vita di tutti i giorni. Sono connaturate al suo essere e sono un prodotto della sua salute cagionevole. Marty le alimenta con uno stile di vita piuttosto spregiudicato. Come amava spesso ripetere, arrivato a 40 anni, si sentiva troppo vecchio per morire giovane e troppo giovane per decidersi una buona volta a crescere. Nel 1983, durante un soggiorno in Messico, dove lavora sul set del film Yellow Bird, i suoi accessi gli sono fatali. A raccontarcelo è Mel Brooks in persona. Chiunque capisca qualcosa di film sa che questo è il grande, grandissimo Marty Feldman, che morì a Città del Messico troppo giovane perché faceva una vita sregolata. Fumava 6 pacchetti di sigarette al giorno e beveva 6 litri di caffè. E pensare che Marty era vegetariano. E quindi, per compensare l'assenza di carne e pesce, insomma di proteine nella sua dieta, mangiava moltissime uova che sono piene di colesterolo. Insomma, tutto il burro e le uova e la combinazione col fumo e il troppo caffè hanno fatto un brutto effetto alle sue arterie. E quindi morì a Città del Messico per un leggero attacco di cuore cui probabilmente chiunque altro sarebbe sopravvissuto. Ma di certo lui non era in ottima forma. Meno di 10 anni prima, nel 1974, Marty furoreggiava sul set di Frankenstein Junior, pellicola a cui David Grieco attribuisce addirittura una sorta di finalità didattica. È l'unico film che è riuscito a far capire al pubblico di tutto il mondo chi è Frankenstein. Perché devo dire, il 90% della gente ha sempre pensato che Frankenstein fosse il mostro e non il creatore. Forse se non fosse stato per Brooks e per Feldman, per il dottor Frankenstein e per la sua creatura, nessuno di noi avrebbe mai saputo apprezzare appieno il sublime valore della stranezza e della diversità. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.